Linee d'ombra di Matteo Caccia. L'ho visto da lontano, ho visto questo bel moro, questo completo scuro, questi due occhi azzurri in una carnagione scura, affascinante, bellissimo. Dico alle mie amiche, guardate come si fa, e faccio la mossa di chi si toglie con la mano la forfora sulla spalla. Storie di due di picche e di amori improbabili in una puntata che si intitola Le relazioni miracolose. E il risultato è che ti amo. Cosa? Ti amo. E che cosa pensi che ti risponda adesso? Per esempio, anch'io ti amo. Preferisco me ne vado. Allora non significa niente per te. Mi dispiace, Harry. Lo so che questa è la notte di Capodanno. Lo so che ti senti solo, ma tu non puoi arrivare qui, dirmi che mi ami e aspettarti che questo risolva tutto. Le cose non funzionano in questo modo. Beh, come funziona? Non lo so, ma non in questo modo. Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. Perché di Harry ti presento Sally. Si ricordano tutti la scena, quella al ristorante in cui lei finge il suo orgasmo per fargli credere che lui non è così figo come crede, che spesso le donne, se vogliono, possono fingere, sono in grado di farlo, e glielo dimostra lì davanti a tutti, in un locale storico di Manhattan che si chiama Katz. È un locale che serve del cibo dell'est Europa, se non ricordo male, ma tant'è, questa è una roba da nerd e lasciamo perdere. Insomma, siamo partiti da questo pezzo di Harry di Presento Sally, che non è quello, ma è un altro, è la sua dichiarazione d'amore, la dichiarazione d'amore che lui fa a lei verso più o meno la fine di questo film e di questa bellissima storia. Si intitola Le relazioni miracolose, la puntata di oggi, perché vi raccontiamo due storie che di fatto hanno qualcosa di miracoloso. Una perché accade dopo anni e anni di distanza tra le due persone, che non si erano nemmeno realmente incontrate, avevano avuto un incontro che era andato molto storto, in mezzo c'è stata una vita intera, ci sono state delle mogli, dei mariti, e poi boom, dal nulla sono spuntati di nuovo l'uno per l'altro e nemmeno quasi si riconoscevano. La prima storia invece è la storia di Ornella, che è una storia molto molto divertente, perché racconta tra l'altro in questo periodo in cui l'unico modo che abbiamo di immaginare la spensieratezza è proprio rievocarla, è rievocarla nel nostro passato, no? Alla fine le storie fanno questo, ci permettono di andare nella nostra memoria e tirare fuori dei pezzi della nostra vita. Ecco, devo dire che sono molto contento di raccontare questa storia di Ornella oggi, proprio per questo motivo, perché c'è della spensieratezza in questa storia che purtroppo in questi giorni manca, ma tornerà, per forza tornerà. Si parla di un'estate, si parla di un viaggio in Sardegna, di una vacanza tra amiche, della voglia, come dice lei, di spaccare tutto, di divertirsi e di godersela fino alla fine. E durante questi viaggi, durante queste vacanze, succede sempre qualcosa che rimane nella storia. Anche voi ce l'avrete, il vostro gruppo di amici con cui ogni tanto raccontate gli stessi aneddoti, raccontate di quella volta in cui quell'estate avete preso il gommone, siete finiti in quella situazione, avete incontrato quel ragazzo o quella ragazza ed è andata a finire così. Ecco, la sensazione è proprio questa, che Ornella e le sue amiche questa storia se la raccontino da anni e che probabilmente questa storia è anche cambiata. Sapete come mutano le storie dopo 10, 15, 20 anni, quando passano di bocca in bocca, vengono un po' limate da una parte, vengono ampliate o sgonfiate dall'altra. Ecco, probabilmente è una di quelle storie lì, è una storia molto spensierata e, come vi dicevo, mi fa piacere raccontarla. Poi continuiamo a raccontare i vostri diari di quarantena. In ogni puntata rilasciamo una piccola storia che arriva da una delle milioni di case che ci sono in questo paese e che sono in questo momento vissute come non mai, in molti casi 24 ore su 24, e noi entriamo dalla finestra di casa vostra, sbirciamo dentro, grazie alle vostre storie possiamo capire che cosa accade in questo paese, per cercare di raccontarlo e di raccontarci. Ma partiamo dalla storia d'Ornella, andiamo con ordine, benvenuti a Linee d'Ombra. Quell'estate decidemmo di andare ad Arzachena, in Sardegna. Affittammo una casa vicino al paese, dove avremmo poi incontrato il resto delle nostre amiche. Una volta arrivate sul ponte della nave, urlammo a pieni polmoni e giurammo che questa vacanza ce la saremmo goduta fino all'ultimo giorno. Marina ci venne a prendere e, dimenticando la nostra età anagrafica, eravamo tutte sulla trentina, ci abbracciammo come delle adolescenti. Ci ambientammo velocemente e la nostra autostima continuava a crescere a dismisura, insomma, ce la tiravamo parecchio. In spiaggia sembravamo delle dive. Alcune di noi, tra l'altro piuttosto in carne, si permettevano addirittura di giudicare le ragazze del posto che, nella loro modestia e sobrietà, in spiaggia occupavano degli spazi miseri rispetto ai nostri. Ormai non ce n'era più per nessuno. 8 ragazze, ritrovatesi al mare, avevano appena dichiarato piena libertà su tutto e su tutti. Io ho conosciuto le altre 7 tramite una mia amica di Torino ed erano amiche sue, di questa Daniela, e un giorno mi ha detto: ah, ti devo far conoscere delle ragazze troppo in gamba, troppo simpatiche. Mi fa: è una come noi. Allora, quando mi ha detto così, siccome che frequentavamo ultimamente delle persone con un po' la puzza sotto il naso, allora ci eravamo un po' stufate, no? Noi volevamo essere noi stesse, brillanti, casiniste, eccetera. E allora lei aveva queste amiche in Sardegna, e quando ha deciso di andare ad Arzachena mi ha detto: vieni con me. Caspita, certo che vengo. Una sera andammo ad una festa di paese, ballammo il liscio con gli anziani del posto, tirandocela, ovviamente, come sempre, manco ce l'avessimo solo noi. A un tratto io noto un ometto davvero niente male, anzi, un soggetto a dir poco caruccio, capelli mossi, neri, carnagione scura, fisico perfetto, anche se tutto ciò era nascosto da una giacca scura. Era attorniato da un sacco di persone che lo chiamavano, gli stringevano la mano, alcune fanciulle lo abbracciavano, dandogli baci sulle guance. Io guardo da lontano questa scena che si ripete in ogni punto in cui lui si ferma. C'è penombra, la musica è assordante. La mia amica Jo mi chiede che cosa abbia attratto tanto la mia attenzione e chi stessi seguendo con tutto quell'interesse. Io le racconto tutto, anzi approfitto per chiederle chi sia quel tipo così bello quanto sconosciuto. Lei lo guarda e mi dice: bello, vero? Qui lo conoscono tutti, fa strage di donne, è venuto ad abitare da circa un anno. Io la guardo e le dico: perfetto, io ci provo, è troppo bello. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Quante volte mi credevo che, invece no, tu guardavi tutti meno me. Credevo invece che ho deciso che mi butterò e qualche cosa combinerò. Questa volta non ci sono se per me tutti adesso tocca a me. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Tu non credi che invece sì, dal momento che mi vedi qui, mi sembra che ora invece sì, ho deciso che mi butterò, ma devi fare qualcosa che tu, questa volta non ci sono se, io non parlo adesso, tocca a te. Stasera mi butto, mi butto. E faccio di tutto per stare con te. Ma adesso tocca a te, ma adesso tocca a te, ma adesso tocca a te. Lei capisce esattamente che sono determinata nel mio intento e chiama le altre amiche, e quindi decidono di creare una sorta di avvicinamento di gruppo. Io mi sento una strafiga, mi sento talmente sicura che le convinco che non ho alcun bisogno di loro, anzi dico a tutte e 7: ragazze, guardate come si fa, avete solo da imparare. E faccio la mossa di chi si sta togliendo con la mano la forfora dalla spalla. Quella serata mi sentivo particolarmente agguerrita perché non giocavo in casa. Perciò dicevo: ma io qui quando ci torno? Chissà se ci tornerò. Perciò ero proprio sfacciata, ero, dicevo, ma sì, tanto qui non mi conosce nessuno. Poi, uscendo da una separazione, avevo poca autostima, e trovandomi in questo posto dove mi sentivo una strafiga, perché ero dimagrita, avevo capelli lunghi biondi, insomma, mi sentivo proprio buona. Il mio era un agguato perfetto. Mi avvicino, sono ancora troppo lontana per averlo di fronte. Intanto mi rendo conto che lui deve avere intorno alla quarantina d'anni. Mamma, quanto è bello. Vado alla carica. Non so ancora cosa gli chiederò. Ci penserò al momento in cui ce l'avrò di fronte. Finalmente arrivo, lui è di fronte a me. Ora vedo, solo in questo momento, una linguetta bianca che spunta dal collo della camicia. Inforco gli occhiali e mi accorgo che sì, è un prete. È il sacerdote del paese. Non ci posso credere. Inchiodo con i miei tacchi a spillo sul pavimento e con la bocca spalancata mi volto verso le mie amiche, che ovviamente se la stavano ridendo. Io riprendo fiato e come un toro di Pamplona mi dirigo verso di loro, studiando un piano di vendetta. Nel frattempo il parroco, che aveva visto tutta la scena, mi fa un sorriso meravigliosamente complice, consapevole di tutto quello che era successo. Non mi sono mai vergognata così tanto, e il resto della vacanza l'ho trascorsa cercando di farmi notare il meno possibile. Ero ovviamente diventata la barzelletta del paese. Was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher man, yes he was, he was, yes he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, he was. Yes, he was. Le relazioni miracolose si intitola questa puntata, e come sapete noi i titoli delle puntate li diamo perché tengono insieme le due storie che vi raccontiamo, no? Cioè quella linea d'ombra che cerchiamo di raccontare con ogni storia è come se fosse il punto di contatto tra la prima e la seconda storia, e noi in questo caso non abbiamo avuto dubbi. Quando abbiamo ricevuto la storia di Ornella e quando abbiamo deciso di raccontarla, ci siamo detti: c'è chiaramente qualcosa di miracoloso in questa relazione, anche se poi in realtà una relazione, come avete ben sentito, non lo diventa. Pronto, ciao Ornella, buongiorno. Ciao Matteo, ciao a tutti. Senti Ornella, io in realtà so che oggi 25 marzo è il tuo compleanno. Sì, certo. È vero. Auguri da parte di tutta la redazione. Ad Anita Panizza non sfugge niente e mi segna tutto, quindi se faccio bella figura è solo merito suo. Doppio regalo allora, il racconto e il festeggiamento, il ricordo del mio compleanno. Grazie, esatto. grazie di cuore. Senti Ornella, ti immagino a casa come tutti. In questo periodo faccio sempre un piccolo check con gli autori delle storie. Dove ti trovi tu in questo momento? Sei a casa? Sei con i tuoi? A casa. Sì, sono a casa. Ho lasciato i miei a pranzo e sono venuta a casa mia. E tu stai in provincia di Torino, giusto? A Settimo Torinese. Stai bene, stai in salute e stiamo in casa il più possibile, come stiamo facendo tutti in questi giorni. Senti, torniamo alla storia invece, che a me è piaciuto molto raccontarla, non solo perché è divertente, ma perché in questi giorni in cui tutti quanti appunto non possiamo fare altro che stare in casa, avere una bella storia estiva, una bella storia di vacanze faceva molto piacere. Avevate 30 anni, giusto? Sì, la maggior parte di noi aveva 30 anni, poi ce n'era qualcuna che aveva anche qualche anno in più. Senti, Ornella, tu lo dici più di una volta nella storia, no? Vi sentivate fighissime. Cos'era successo di particolare in quell'estate rispetto al solito da farvi sentire così fighe? Allora, prima di tutto eravamo fuori zona, fuori casa, non giocavamo in casa. Perciò qualsiasi cosa noi ci mettessimo addosso ci sentivamo bellissime, ci sentivamo non giudicate, ci sentivamo libere di comportarci e di vestirci, di essere noi stesse, forse perché a Torino facciamo un lavoro sempre a contatto col pubblico, dobbiamo sempre mantenere una certa immagine. Certo. E invece, essendo lì in vacanza, abbiamo voluto veramente lasciarci alle spalle il quotidiano e vivere veramente la nostra personalità, che non arrivava mai a degli estremi, perché siamo sempre state molto insomma, non siamo mai uscite troppo dagli schemi, però il fatto di parlare a voce alta, il fatto di ridere senza freni, il fatto di avvicinarci in maniera un po' così, insomma, provocante, ma sempre per la risata, ecco. Certo. Insomma, quindi c'era un'euforia generale nel gruppo, mi sembra di capire. Sì, poi ci davamo man forte, perciò... Questa è una storia che vi raccontate ancora tra di voi, Ornella, quando vi vedete, se vi vedete ancora. No, purtroppo ci siamo perse tutte quante, una è mancata e l'altra, quella che è mancata era un po' il fulcro che univa tutte noi. E in Sardegna ognuno poi ha preso la propria strada di famiglia, di figli, hanno cambiato proprio veramente anche zona abitativa. Certo. Ed effettivamente la Sardegna, non essendo molto vicina, non ha dato più modo di rincontrarci. Perché loro, parte di loro erano sarde, giusto? Sì. Okay. Sì, sì. Senti, invece, raccontami della reazione del sacerdote, che sembrava molto consapevole da come ce la racconti. Mio Dio, mi ricordo solo che quando si voltò verso di me, io ero prontissima, proprio ho detto: guarda, qui lo invito a bere qualcosa, e intanto gli dico subito che è proprio un bell'uomo, è proprio spudorata. Quando lui si è voltato, ho visto questa linguetta bianca che usciva fuori dal collo, dalla camicia del collo, mi sono sentita morire. Lui ha capito perfettamente, uomo intelligentissimo e molto perspicace, ha capito questa cosa e mi ha sorriso, non col sorriso da rimprovero, ma gratificato e poi molto paterno, perché lui avrà avuto una quarantina, perciò anche giovane. Mi ha guardato proprio con quel sorriso paterno e mi ha fatto ancora sentire ancora peggio, perché Dio, ho detto no. Ovviamente. Infatti, quando mi sono voltata a guardare le mie amiche, guardate imbufalite, mi sembravo veramente un toro imbufalito, come dire: cavolo, voi lo sapevate e non mi avete detto niente. Ovviamente di lui non sappiamo più nulla, non sappiamo dov'è, cosa fa, no? Meno male. Senti, male, guarda, Ornella, troppo caruccio. Io ti ringrazio molto, non solo per la storia, ma anche per il tono splendido della tua telefonata, che insomma ci tiene tutti con un'allegria che in questi periodi è un pochettino più complicato da avere. In bocca al lupo per tutto e magari mandaci anche un tuo diario di questa quarantena, se hai voglia. Mandaci una paginetta in cui ci racconti come la stai vivendo. Va bene. L'indirizzo è sempre grazie, quello. Grazie Matteo. Grazie a te. Grazie, ciao Ornella, grazie, buona giornata. Grazie di cuore. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, or maybe even making up. Check it. I missed a part of you I can't get back. Don't be a silly milly, I'm always here for you, through the thick and thin, not just because we argue. See, I wanted to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only were a fool, I'd be Dopo la storia di Ornella e di questo tentato agguato al sacerdote del paese andato a male in una puntata che si intitola Le relazioni miracolose, ascoltiamo Le borse in diretta e poi torniamo a raccontare ovviamente di relazioni che hanno del miracoloso qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. E dopo la storia di questo tentativo di abbordo o di accosto, dipende dal termine nautico che preferite usare, andato abbastanza male che ci ha raccontato Ornella, ora continuiamo a raccontare. Questa è una storia, che abbiamo trovato sul New York Times, che ha scritto la protagonista, che è una giornalista proprio di quel giornale americano. La puntata si intitola appunto Relazioni miracolose, vi dicevo, e ora sentiamo dalla viva voce della protagonista, dell'autrice della storia, la storia di un amore che sembrava praticamente morto prima ancora di nascere e invece alla fine miracolosamente è diventato l'amore della vita. State con noi. Secondo il sito di incontri, il suo profilo era perfetto per me. Una testa di riccioli d'argento, divorziato e come me in attesa della persona giusta. A 58 anni io stavo ancora cercando di trovare la mia parte romantica, dopo la fine straziante di un matrimonio che è durato 35 anni. Avevo pianto molto in quell'estate e ora ero pronta per una nuova persona, finalmente. Mentre ci sforzavamo di far coincidere gli orari per un incontro, i suoi messaggi erano diventati decisamente autoironici. Se stai cercando un cattivo ragazzo, mi scrisse, non credo che ti piacerò. Quando poi ci siamo incontrati di persona, ho pensato che fosse abbastanza attraente, anche se sembrava un po' un papà. Era un ascoltatore eccezionale, attento, pieno di domande, anche se un po' troppo desideroso di piacermi. Quando ho descritto il fatto di essere cresciuta dai miei nonni che erano degli immigrati e che soffrivo la loro mancanza da tempo, lui mi ha detto: ho avuto gli stessi adorabili nonni ebrei, mi hanno fatto superare la mia infanzia di merda. Ero rimasto affascinato dai suoi messaggi, però di persona ero già un po' stanca di quella che sembrava una conclusione che lui dava per scontato riguardo alla nostra serata. Per lui noi eravamo già una coppia. Ciononostante mi sono trovata in qualche modo a malincuore ad accettare un secondo appuntamento. Lui mi sembrava un uomo con cui mi sarebbe piaciuto chiacchierare ad una festa, per dirla, però poi non avrei mai più voluto vederlo. La mia storia è complicata, io mi sono sposata a 23 anni, ero così giovane che il mio senso del corteggiamento si avvicinava a zero. Quell'incontro andato a male era l'unico appuntamento a cui ero andata dopo che io e mio marito ci eravamo separati nell'arco di 14 mesi. Mio marito si era trasferito a vivere nel suo posto di lavoro. Ne seguì una fase di stallo solitaria durante la quale ogni giorno piangevo fino ad addormentarmi e consultavo gli avvocati divorzisti ogni giorno. Durante un periodo di crisi con mio marito, quando eravamo ancora fidanzati, io avevo usato gli annunci di un giornale che si chiama New York Press, che aveva una sezione dedicata agli annunci personali tra uomini e donne. Ero uscita con un tizio molto noioso, che non avevo voluto rivedere una seconda volta. Mi inventai la scusa che mi ero rimessa con il marito. Non era vero, poi però accadde sul serio e rimanemmo insieme per più di 30 anni. Per anni quindi, dopo essere tornata con mio marito, le mie amiche, a loro volta a caccia di compagni, si sono sorbite da me sempre lo stesso racconto ammonitore sulla fiducia nel nostro istinto relativo alla prima uscita. Se non sei entusiasta di vedere un ragazzo una seconda volta, lascia perdere, dicevo a tutte. Ad oltre 20 anni di distanza stavo infrangendo la mia stessa regola, accettando di uscire per un secondo appuntamento con questa persona quando il primo non mi aveva per niente convinto. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Sail the 7 seas, across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, I'll meet you halfway. Eravamo a cena la seconda volta quando ad un tratto gli chiesi: hai fatto molti incontri online? Sì, mi rispose lui. Ho incontrato la mia ex attraverso un annuncio di quelli dell'era pre-internet, però, che si trovavano su un giornale, il New York Press. Forse ne hai sentito parlare. Come no, ho risposto io. In realtà ho avuto il peggior appuntamento della mia vita grazie a quel giornale. E per evitare il secondo appuntamento, pensa, gli ho detto che avevo deciso di tornare con mio marito. E al momento non era vero, poi però è successo davvero. Lui, a tavola, al ristorante, si fece molto serio e mi disse: te lo sei inventato? Quindi, quell'uomo avrei potuto essere io. Io risi e lui mi disse: io ho sempre tenuto dei diari, controllerò a casa. Poi mi baciò e sparì nella metropolitana e la nostra seconda serata finì. Un'ora dopo mi mandò un messaggio: dov'era quell'appuntamento? Io risposi: al Peacock Café. Ero io, mi risponde. Mi mandò anche un'immagine dell'annuncio di allora, che aveva salvato tra le sue foto. E io l'ho riconosciuto subito. Mi eri piaciuta, sai? Mi ha scritto. Molto. È scritto qui sul mio diario. Volevo rivederti. Chiaramente ero troppo stronzo per esprimerlo chiaramente. Io sono rimasta scioccata. Non sono superstiziosa e non credo nel destino, ma questo sembrava proprio quel caso lì. E allora ho deciso di rivederlo, per la terza volta, l'uomo a cui avevo mentito la prima volta 20 anni prima. Questa volta ci siamo baciati, con una complicità quasi divertita. La nostra conversazione al ristorante sembrava finalmente meno traballante. In seguito lui mi ha accompagnato a casa e siamo finiti sul mio divano raccontandoci il nostro fiasco di tanti anni prima. Io mi ero tolta i sandali, lui mi ha preso il piede per massaggiarlo come se fosse un'abitudine di lunga data. E poi abbiamo cominciato a parlare, quasi come vecchi amanti, delle ragioni di quel primo appuntamento fallito più di 20 anni fa, collegando, in altre parole, al nostro precedente fallimento amoroso. Al nostro successivo appuntamento abbiamo portato una bottiglia di vino eccellente nella mia camera da letto per brindare alla nostra buona fortuna. Questo è accaduto ormai più di 2 anni fa. Stiamo ancora insieme. Volete sapere qual è la mia nuova regola? A volte ci si capisce al primo appuntamento, a volte invece possono servire 24 anni. In the waiting days ahead, I gotta look back down the road. I know that it's not too late. All the stupid things I said, the people I hurt and let down. But I hope that it's not my fate to keep defeating my own self. Si intitola How My Worst Date Ever Become My Best, come il mio peggior appuntamento è diventato alla fine il mio miglior appuntamento. L'abbiamo trovato sul New York Times, l'autrice si chiama Bonnie Alcher, la puntata si intitola Le relazioni miracolose, ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo con i vostri diari dalla quarantena. Linee d'ombra. Qui a Linee d'Ombra, oltre alle storie che vi raccontiamo ormai da settembre, le storie che hanno un confine in mezzo e alla fine delle quali siete state delle persone leggermente diverse rispetto a quella che eravate prima, insomma storie che hanno a che fare con un piccolo o con un grande confine, vi stiamo raccontando da ormai un paio di settimane, grazie a voi, grazie a tutto quello che ci mandate, i diari della quarantena. È come se fossimo una piccola mosca posata lì nelle vostre case e possiamo scrutare quello che state facendo in questi giorni in cui siamo costretti a stare a casa, se possiamo permetterci di stare a casa, come diciamo tutti i giorni. E quindi ogni giorno un piccolo diario, ogni giorno una nuova storia. Oggi andiamo a casa di Rosita. Ciao Matteo, in questi giorni schizofrenici, che vagano almeno per me, dall'isterismo all'indolenza collettiva, in questa domenica mattina uguale a tante altre, prima di buttarmi sui fornelli, raccolgo le idee e te le regalo. Anzi, forse il regalo lo faccio a me, che ho bisogno di riordinare emozioni e pensieri. Mi chiamo Rosita, ho 53 anni, due figli, vivo a Mirandola, nella bassa modenese, già nota per il sisma che ci ha colpito nel 2012. Da un paio d'anni la mia vita scorre abbastanza in solitudine. Mio figlio Luca studia a Milano, mia figlia Chiara invece convive. Fino al venerdì, quindi, vivo sola con la mia gatta e le mie giornate scorrono tra le ore, tante al lavoro, un po' di uscite con le amiche, viaggi, quando possibile, ma soprattutto casa, tanta casa. Poco meno di un mese fa è arrivata prima in punta di piedi con notizie dalla Cina e poi a gamba tesa in Italia l'epidemia di Covid-19. Ai primi suggerimenti si sono susseguiti i decreti che via via hanno limitato la nostra mobilità per cercare di arginare la diffusione. Le attività piano piano chiudono, prima gli svaghi, poi le scuole, poi il ristorante, bar e infine molti uffici e imprese che, non potendo garantire la salute dei lavoratori, preferiscono optare per la sospensione oppure per lo smart working. E fin qui non racconto niente di nuovo, per tutti, ma non per me. Le mie giornate sono esattamente uguali a se stesse e non mi accorgerei dell'emergenza se non fosse per il figlio universitario fisso sul divano, che si divide tra una lezione in streaming, la PlayStation e una serie americana, e per la martellante, e comprensibile ovviamente, informazione monotematica che vaga tra l'allarmante e il rassicurante. La mattina mi sveglio alla solita ora, raggiungo il solito ufficio, dove da sola affronto le giornate lavorative in solitudine. Le strade che percorro in bicicletta con la dichiarazione in tasca per giustificare i miei spostamenti sono surreali e io mi chiedo perché invece sono lì. I social sono straripanti di post tra il serio, il fake e l'ironico, tutti monotematici grazie all'immenso tempo libero che molta gente si trova ad avere loro malgrado. Io mi sento di non appartenere a questa emergenza, se non fosse per la preoccupazione di un fratello con famiglia lontano, una figlia fuori casa e il mio enorme senso civico, mi sembrerebbe di stare a guardare una serie TV, angosciante, certo, della quale io sono una semplice spettatrice. Non voglio minimizzare la drammaticità delle situazioni sanitarie, perché i numeri sterili che ogni sera alle 18 ci vengono snocciolati sono persone, sono affetti, sono pezzi di vita che stanno soffrendo e in certi casi, ahimè, se ne vanno. Non voglio minimizzare nemmeno l'enorme sforzo che il personale sanitario sta facendo e al quale dovremmo essere tutti molto molto grati. Sto piuttosto parlando della mia estraneità a tutto questo tempo libero, alla autoquarantena forzata. Mi sento quasi in colpa a fare questi pensieri, ma è così. La mia vita, con qualche precauzione in più, è uguale a prima e faccio fatica a sentirmi parte di questa orribile nuova situazione d'emergenza. Io mi sento esclusa, al contrario, non so esattamente come spiegarlo. Mi pare di essere spettatrice e non protagonista, o se vogliamo vederla al contrario, io sono protagonista di una storia diversa rispetto a quella che si sta svolgendo intorno a me, ma almeno ad un metro di distanza. Spero che quando tutto questo sarà passato, chi ne ha il potere trovi la forza e il coraggio di aiutare tutti quelli che saranno inevitabilmente in difficoltà. Ma questa è un'altra storia. Sunrise, sundown, the streets gone, golden brown, harbor skies above, searching for my love, searching for my love. Thank you.

terribile della nostra vita. E poi Mauro Pescio, che scrive le puntate di Linee d'Ombra insieme a me, Luca Micheli, che sceglie le musiche, e grazie davvero a Radio 24, che sta continuando a fare un grandissimo lavoro in questi giorni di emergenza. Voi mandateci le vostre storie, fatelo se ne avete voglia, lineedombra@radio24.it, o le storie della vostra vita, oppure le storie dei vostri diari di quarantena. Noi ora lasciamo la linea al GR e poi torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per stare su con il morale e per raccontare il mondo. Viva!